Sono sempre stato dell'avviso che il teatro non deve essere in teatro, per forza. Io tutte le cose che ho fatto da 10 anni a questa parte sono pensate proprio per farli anche nel bar. Mi spiego? Cioè in spazi alternativi, andare dove la gente c'è magari. Certo deve essere interessata a quello che proponi tu, perché sennò cioè, viene fuori un gioco al massacro, no? Cioè, io lo faccio lo stesso, ma non ho nessun piacere, cioè, hai capito? Cioè, arrivo alla fine del mio spettacolino, ma non ho nessun piacere, anzi, mi porto a casa uno stress. Come se fosse un elemento di disturbo. Eh sì, certo. E poi la gente deve essere anche un po' abituata. Allora, il teatro è un rito, secondo me, e la Sciamma penso che sarebbe d'accordo, è comunque un rito, no? Per cui il fatto di andare a teatro vuol dire che tu organizzi di andare, vai, è un po' come andare a messa, la stessa cosa, quindi devi parcheggiare se arrivi, eccetera, o comunque tenere un orario preciso, e intanto che sei lì tu ti dedichi a quella cosa lì. È ovvio che poi non succede che quello che guarda il cellulare mentre c'è l'orchestra sinfonica di Dresda e questo guarda comunque, cioè, ok, lascia perdere, ma in teoria dovrebbe essere così. Dedichi quella, se lo sai già da prima, quindi io quell'ora e mezza lì vado là, perché sennò che cosa cazzo ci vado a fare, mi spiego, cioè devo pensare ad altro, perché vado a vedere l'Amleto, basta, non se ne può più di vedere, se vado a vedere quell'Amleto lì è perché voglio vedere quell'Amleto lì, per cui, cioè, molta gente non è abituata a questa cosa di attenzione, no? Si è ridotta già negli anni, non solo per i bambini ma anche per gli adulti, si è ridotta, più di un'ora e un quarto non riesce a tenerli lì, dopodiché, ma almeno un'ora e un quarto dammela della tua vita, se no, o no, mi spiego? Per cui il bar, perfetto, il bar ideale mio è quello lì, che fa un po' tutto, cioè, no? Quindi fa la musica, la serata musicale, ma anche durante la stessa serata, no? Cioè, può essere. La prima mezz'ora c'è il sax, che non lo so, eccetera. Poi, a me sono sempre piaciuti i mix, nel senso che li ho fatti anche tanto dal vivo. Io sono stato voce recitante, te l'ho detto, non soltanto lì a Sanremo. Ho fatto un sacco di cose che ho organizzato io, perché dirigevo un teatro Cuore Milano, Cusano Milanino, e non avevamo un pubblico, nel senso che non dovevo crearlo, e quindi il primo anno soprattutto io le ho tentate tutte, no? Cioè gli dico, ti do la prosa, Pirandello per dire, ti do la serata solo musicale, ti do l'orchestra sinfonica, ti do il mix, cioè pianoforte, voce recitante, pianoforte recitante, due cantanti lirici, sax e piano, sax in the city, quella sera lì l'avevo chiamata sax in the city, non so, cose di questo genere. Ho visto che di solito i mix piacciono, nel senso che la voce recitante che recita magari delle poesie di Kerouac, piuttosto che, non lo so, americane, e le musiche sono poi di Gershwin, di Cole Porter, eccetera, gli piace, cioè, se ha un senso sentirle insieme, gli piace, e ti dà quei 5 minuti di attenzione di qui, diversa da quella che dà la musica, ma comunque è attenzione. Queste cose qui, i bar, secondo me, dovrebbero farle. Mi è venuto in mente quello di Guerre Stellari, però quello di Guerre Stellari è confuso, nel senso che c'è molto assembramento. Dove si suona, si balla, no? Cose del genere, continuamente, no? Il sax e tutte queste cose qua. Il bar più legato alle cose che faccio io dovrebbe essere anche quello che a un certo punto si tacita e la gente è costretta, diciamo così, a un'attenzione particolare. Allora, l'happy hour con Delitto, che io ho fatto diverse volte o cose così, prevede che comunque la gente sappia quello che succede, e quindi, cioè, nel senso che adesso entriamo in un'ottica diversa, quindi ci vuole l'attenzione, ci vuole seguire, se no non riesci, per cui ci sono miei colleghi, soprattutto ultimamente, che vedo che fanno delle cose, monologhi, perché adesso più che monologhi in bar io non ci vado, mi immagino anche la fatica, nel senso che io ho provato a fare delle cose che prevedono un minimo d'attenzione, poi non li puoi tenere lì per 2 ore, però almeno magari mezz'ora sì, ma è molto faticoso dal punto di vista di chi fa questa cosa. Sentire che nel frattempo, cosa che mi è successa, facevo la Nina di Roussin, uno spettacolo di 3 atti, c'era la Nina di Roussin, me l'ha fatto fare lì, dove c'era il bar della parrocchia, eccetera, dove c'era, macinavano il caffè, i bambini che andavano avanti e indietro con le patatine, tutte queste cose, cioè questa cosa qui è faticosissima e non la auguro al mio peggior nemico. Ecco, per cui il mio bar ideale è quello dove si fa un po' tutto questo, cioè visto che no, si prevede, c'è la musica e quindi vabbè si parla eccetera eccetera, poi magari c'è mezz'ora in cui si sta in silenzio e si assiste, si entra in un altro clima, dopodiché si torna a cicciarare eccetera. Questo è il mio bar ideale, esiste? Faceva fare questo personaggio un po' strano che arrivava, cercava la moglie, poi avevamo dei dialoghi in mezzo al pubblico per animare il pubblico, così, cioè facevamo finta di essere, era un finto pubblico praticamente, no? E poi invece mi ha chiamato per fare una parte anche in La vita è il sogno, La vita è il sogno. Un soldato, poi facevo più parti, facevo più particine, uscivo, cioè, e ancora il teatro era smembrato, c'era il salone con la sabbia e cose di questo genere, con Rivolta che faceva il protagonista, e poi Ondine nelle le due versioni di Ondine, sia che la prima con la, mi ricordo come si chiamava, la Sabina Colle, esatto, e la seconda con la Marina Rocco, esatto. E lì anche lì facevo 2 parti, nella prima facevo il guardiano delle foche e quindi ero tutto agghindato in maniera strampalata con il pallone delle foche, eccetera. Nella seconda parte invece, siccome mi piaceva il fatto che all'epoca, poi non lo so se sono più rivisti così, però sembrava che le piacessi molto, soprattutto per come sapevo stare in scena anche senza parlare. Per cui in tutto il secondo atto, tu l'hai vista Ondine? Sì, sì, a uno che da lì ci siamo incrociati. Vabbè, allora in Ondine ero il maggiordomo del palazzo e quindi io ero in scena tutto il secondo tempo senza neanche una battuta, forse ne avevo una, non lo so, ma allestivo, spegnevo, eccetera, eccetera, c'era questa mia presenza scenica che incombeva nell'ambiente, eccetera. E io ho fatto tutte e due le versioni lì. Anzi, da quella cosa lì poi mi è piaciuto perché un regista è venuto poi nei camerini, poi ha chiesto anche il permesso alla Sciamma, pensava che io fossi della compagnia, invece no, di avermi, perché l'avevo molto colpito per la presenza scenica che avevo, pur non parlare, e mi aveva proposto questa cosa che poi abbiamo fatto, era una prima assoluta mondiale, un testo che aveva trovato in una biblioteca, attribuibile a Goldoni, ma non si sapeva se fosse veramente di Goldoni. Si intitolava Il falso ospite, una commedia molto carina, scritta molto bene, divertente, e purtroppo per motivi un po' di sfiga abbiamo fatto solo la prima e poi abbiamo fatto un'altra, ma poi non è andata in giro, doveva girare. Comunque vabbè, anche questa cosa mi è venuta fuori sempre da Franco Parenti, poi sono rimasto sempre in rapporto col Parenti, che per me è il teatro più bello che c'è a livello nazionale, per come è strutturato, per l'idea che c'è, cioè che il teatro arriva dappertutto, e no? Cioè ti senti anche quando vai in gabinetto, ti senti sul palcoscenico, no? Lì, facendo un din la prima versione, ho conosciuto la Laura Pasetti che faceva la regina, con cui sono rimasto poi per un po' di tempo in rapporto. Lei faceva un laboratorio, io già insegnavo, però ogni tanto se c'era qualche full immersion, qualche cosa particolare, andavo come allievo, per cui io ho seguito un suo corso fatto lì nella sala 3, mi pare, non lo so, su Beckett. È stato molto interessante. Poi abbiamo fatto lì il saggio finale, e quindi io sono stato contento perché non avevo mai fatto Beckett. Io ho fatto Play di Beckett, che è questa cosa molto particolare per cui sono soltanto tre teste che vengono fuori dal palcoscenico: il marito, la moglie e l'amante. E nell'originale saremmo in tre urne, cioè perché post mortem, siamo tutti e tre morti, non sappiamo di essere seppelliti vicini, e quindi ognuno ha il suo monologo, no? Che racconta la cosa dai tre punti di vista diversi, bellissimo. E è la luce, che è Dio, l'inquisitore, quel che l'è da fuori, che a seconda di come illumina tu parti con il monologo e vai avanti. Quindi difficilissima, c'è una concentrazione pazzesca, e mi è servito tantissimo anche per rivedere la mia drammaturgia, per capire molte cose da Beckett, anche per le scene brevi ma puntate anche su un'immagine forte, mi è servito per le cose che ho scritto dopo, insomma. Poi ho smesso più o meno di fare l'attore, ho cercato di lasciar perdere di fare l'attore, perché io ho sempre fatto insieme le cose, nel senso che dai 7 anni in poi io ho sempre scritto sia le poesie che i raccontini, eccetera eccetera. Poi avevo mio papà che suonava il pianoforte, con cui lui suonava e cantava, ho studiato anch'io un po' di pianoforte, lui voleva che facessi il pianista ma che andassi a impiegarmi da qualche parte, per cui è stato un motivo di allontanamento tra me e lui, perché a 16 anni io avevo già una compagnia di cabaret, i Lunatici, siamo riusciti ad andare anche una settimana al Derby, noi aprivamo la serata, sto parlando degli anni 70, avevo avuto già un pochino di esperienza di palco, perché appunto mio papà suonava, così a 7 anni mi hanno portato, cantando il Pulcino Ballerino, a partecipare per lo Zecchino d'Oro, e ho vinto la selezione per la Lombardia, il Pulcino Ballerino. Solo che poi mio padre non mi ha voluto portare a Bologna alla finale. Cioè mio padre voleva, ma non che poi io facessi questa roba qui, non voleva. Io scrivevo bene già alle medie, e ho avuto sempre la fortuna di avere degli insegnanti, sia quella di lettere che quella di applicazioni tecniche, che amavano il teatro, per cui ho avuto la fortuna di essere molto incoraggiato verso il teatro. Tanto è vero che mentre in altre scuole, nelle scuole, cioè si fa il saggio di fine anno, che vabbè, da più o meno, cioè io ho fatto la cantatrice Calla in terza media, non so se mi spiego, ho fatto In alto mare di Mrozek, che poi ho ripreso anni dopo, ho fatto un'altra vez, per dire, no? Quindi ho avuto e solo sul palco mi sentivo a mio agio, perché poi fuori ero timidissimo, cioè scrivevo le mie cose, cioè. Cosa è successo? È successo che andando in quinta ginnasio, cioè il primo anno del liceo, il figlio della mia professoressa delle medie, che io non conoscevo, ma lui conosceva me perché era venuto a vedere, voleva fare un duo di cabaret tipo Cocchi e Renato. per cui lui era avanti di 2 anni, era già in prima, io ero in quinta ginnasio, è venuto a trovarmi in classe, mi dice: senti, io ti conosco, io sono il figlio della signora Raimondo, eccetera, eccetera, vorrei fare un gruppo, so che tu scrivi bene, perché io suono e faccio il comico, voleva fare il comico e compongo le canzoni, tu ci fai i testi a queste canzoni se vuoi e facciamo delle scenette, cioè, ma intanto magari facciamo delle cose di Cocchi Renato, dei Gatti di Vicolo Miracoli, di Annacci. È successo tutto in frettissima, perché io all'inizio sono rimasto un po' così, io dico vabbè, sì, ok, per cui già quell'anno lì noi avevamo la casa a Rapallo, lui aveva la casa vicino a Rapallo. Quell'estate ci siamo praticamente chiusi per scegliere i testi e lui aveva le idee molto più su queste cose, molto più avanti di me. Io Gaber, vabbè, d'accordo, però cosa scegliamo, cosa facciamo? E abbiamo preparato uno spettacolino di un'oretta e mezza. E sempre durante quell'estate lì, e con altre anche canzoni scritte da noi, no? E, lì a San Massimo di Rapallo lui conosceva un bar, ecco, vedi che torna al bar, dove abbiamo debuttato, perché il padrone del bar ci lasciava andare lì a fare, diciamo, non le prove, facevamo lo spettacolo, il pubblico, cioè non eravamo pagati, ma intanto ci provavamo, quindi ho cominciato non con una scuola, io ho cominciato con la gavettaccia, come si faceva negli anni 20, no? Con la vera gavettaccia, per cui vedere le cose che funzionava, che non funzionavano, come reagiva il pubblico, cioè che ci dava le mance, eccetera, quindi ci abbiamo guadagnato più allora che adesso, no? Per dire. No, e quindi ci hanno riconfortato nell'idea che forse stavamo facendo la cosa giusta, eravamo sempre noi due. Lui faceva il comico e io facevo la sua spalla, poi le cose un po' si sono invertite. È successo che poi tornando a Milano, quindi settembre, ottobre così, lui, che aveva una faccia di tolla pazzesca, è andato a parlare con un bar-ristorante in Panfilo Castaldi, e gli ha chiesto se noi il sabato sera, se voleva proporre questa cosa. All'epoca c'erano diversi luoghi cabaret a Milano, c'era la Brasa, c'era il Derby, c'era il Triangolo, c'era il Refettorio, cioè, quindi questo qui aveva un bel ristorante un po' grande, cioè, sì, va bene, ok, aveva anche il pianoforte. Allora, visto che aveva anche il pianoforte e mentre scrivevo delle cose per due, delle scene, mi veniva voglia di scrivere, di ampliare il discorso, abbiamo chiesto a un nostro compagno, un suo compagno di classe che suonava il pianoforte, se voleva far parte del gruppo, e quindi abbiamo debuttato lì e abbiamo fatto 2 o 3 mesi, praticamente tutti i sabati. Che anno? Dopo vado a vedere, ma sono inizi anni 80, probabilmente fine sì. E quando avevamo abbastanza materiale ci veniva voglia subito, cioè un mese dopo l'altro, di affittare un teatro e portarlo in teatro. Allora, siccome secondo noi ci stava anche bene una presenza femminile, abbiamo cambiato quattro donne. Il problema è che lui tutte le volte si impiastricciava con queste donne che lo mandavano al diavolo, e quindi bisogna cambiare, perché faceva queste cose qua, un casinista pazzesco. E quindi abbiamo affittato, c'era un teatro, primo mi pare che fosse, adesso non c'è più mi pare, Teatro delle Colonne, no, non il Teatro delle Colonne, il teatro vicino al piccolo che c'è adesso. No, sempre lì vicino, vabbè, ok, d'accordo, che era annesso alla parrocchia, che c'era, non lo so, abbiamo affittato questo teatro qui, abbiamo fatto la prevendita a scuola, lui soprattutto perché io non ho il coraggio, abbiamo venduto un sacco di biglietti e abbiamo fatto 3 sere e abbiamo intitolato questa cosa, mi pare, e i testi erano tutti nostri, tutti miei, i testi, le musiche erano sue, tutti i miei, Gabbar è cantato, più o meno come faceva Gabbar, no? Quindi c'erano queste scenette alternate alle canzoni. Praticamente ci proviamo, deve essere stato sì, praticamente ci proviamo. È andato bene questo, dopo 3 o 4 mesi abbiamo fatto praticamente ci si riprova o no, ok, e anche lì 3 sere, venerdì, sabato e domenica. Siamo sempre allo stesso un anno, eh? Ok. E poi mi sono allargato, quindi all'epoca non era così scontato come adesso. Ho preso Shakespeare e l'ho ribaltato, ho fatto Amleto and Company. In questi spettacoli qui è venuta fuori una scenettina di 20 minuti che poi ho intitolato Contro Delitto, in cui eravamo in tre, noi tre maschietti, che funzionava particolarmente bene. Per cui abbiamo estrapolato, abbiamo proposto in qualche cabaret di Milano il Contro Delitto, che era sull'assurdo. Allora non c'era ancora fuori, non era ancora venuto fuori l'ispettore con il duo, aspetta, quello che poi è morto, Zuzzurro e Gaspar, che faceva Zuzzurro. Ecco, più o meno io facevo l'ispettore, un ispettore così, stordito, cose del genere, ma era era teatro dell'assurdo, no? Delle cose succedevano un po' anche Elsa, tipo Elsa Poppy. E agente che collaborava con Gentile Marangoni, che erano dei manager all'epoca che avevano Grillo, che avevano questa gente più importante. Grillo faceva il cabaret, non è che... Ci ha proposto di andare una settimana al Derby ad aprire la serata. La serata si concludeva con Massimo Bol di Teoteocoli e poi c'era Abba Tantuono che debuttava. Cioè, guarda quante ne ho viste. Abba Tantuono che debuttava, poi c'era un cantante, cabarettista, adesso non ricordo, ma c'ho i ritaglini, e Faletti debuttava in quei giorni lì. Mi pare che una delle sere, un paio di sere, sia venuto Faletti, cioè che cominciavano, loro cominciavano come noi, cioè, praticamente. E loro hanno fatto i soldi, io no, ma comunque. E abbiamo fatto sta settimana al Derby. Dopodiché è cominciato il disastro, nel senso che lui faceva delle cose che non c'erano in terra, io non ero più d'accordo, ho voluto disfare la compagnia, ma soprattutto perché io mano a mano che andavo avanti, e quindi anche come testi, ho scritto anche dei testi per altri cabarettisti che me li hanno chiesti in quel periodo lì, io avevo 18 anni, non so. Siamo andati a fare insieme, ma poi lui l'hanno licenziato, e anche lì aprivano il Tanka Village a Villa Signos. Quindi avevamo conosciuto questo cabarettista che si chiamava Chandrel, Gigi Torinese, in arte Gigi Torinese, che andava molto bene nei cabaret di Milano, eccetera. Gli avevano offerto di fare capo animatore in questo nuovo villaggio in Sardegna. E lui ci aveva fatto andare con lui, solo che il mio collega continuava a litigare con questo qua e questo qui l'ha licenziato. Lui pensava che io mi licenziassi e tornassi con lui. In realtà io ho detto no, scusa, licenziato te, questo qua. E quindi gli attriti cominciavano in questo, e ho fatto tutta la stagione. In più, cosa è successo? È successo che io sono andato lì come vice animatore, no? Spalla dell'animatore. A luglio hanno richiamato a militare l'insegnante di ginnastica e yoga, e siccome io facevo ginnastica e yoga e zen eccetera, mi hanno chiesto se potevo fare anche quello, e infatti. E quindi io facevo le lezioni di ginnastica per i bambini, per gli adulti, lo yoga, quindi è stata un'esperienza pazzesca questi 3 mesi. Avevo sempre tipo 18 anni, 19 anni, una roba così, no? Quindi, e quando sono tornato, io volevo andare avanti meglio, cioè, perché l'idea mia era finire il liceo, poi iscrivermi al DAMS e quindi fare arte spettacolo. Le cose poi sono andate diversamente quando è successo, perché la mia famiglia, diciamo, i miei si sono divisi, io sono entrato in collisione con mio padre, sono entrato in collisione decisa con mio padre, a parte i problemi familiari che, di cui non parlo, ok, perfetto, però cosa è successo che noi presentavamo come i Lunatici, la nostra compagnia si chiamava i Lunatici, presentavamo al Circolo della Stampa il mio nuovo spettacolo, mi pare che non era Hamleton, forse era Hamleton Company, forse era Hamleton Company, vabbè, sì, e presentavamo questo spettacolo al Circolo della Stampa, quindi tutti i giornalisti, così è andato molto bene, mio papà è venuto dietro le quinte dopo la nostra performance e mi ha detto: io vedere mio figlio fare lo scemo davanti a tutti mi sono sentito male, cioè, non mi è piaciuto per niente sta cosa qui, e gli ho detto: ah, va bene, allora sappi che comunque io lo farò lo stesso. Lì si è creata questa cosa, perché io lo volevo fare l'attore, volevo scrivere, volevo fare tutte queste, la regia, non lo so, qualunque cosa, ma l'attore saputo, insomma, quindi io volevo laurearmi al dance. Il problema è che poi, per come sono andate le cose in famiglia, non ci sono riuscito, perché già lavoravo qui, col cabaret, eccetera. Per quanto poco, ma comunque gli amici erano qui. Quindi mi sono iscritto a filosofia qui. Perché è lo stesso in statale, ho fatto un anno, dopodiché ho chiesto, per la situazione familiare, di partire a militare. Avevo fatto il rinvio, invece ho chiesto l'anticipo di andare via un anno, perché dovevo chiarirmi un po' le idee, che cosa volevo fare, così. Un po' prima di questo è successo che io mi sono, no, non mi ricordo l'annata, comunque fa sempre parte del discorso che io volevo fare le cose seriamente. Io volevo fare il piccolo, cioè ho provato a fare il piccolo teatro, no? E litigavamo anche su questo col mio socio, perché lui non voleva, perché se andavo al piccolo non potevo recitare fuori per 3 anni, eccetera, e quindi si mollava il colpo. Io invece volevo fare le cose seriamente, prepararmi bene, eccetera. E ho fatto l'esame al piccolo. Mi hanno richiamato, me l'hanno fatto fare un'altra volta, perché c'era il numero chiuso ed erano incerti tra me e un altro. In commissione c'era la Nicoletta Ramorino, che probabilmente tu conosci, conosce tutto il mondo, Nicoletta Ramorino, che io non conoscevo assolutamente. E viene fuori dopo l'esame, dopo la seconda volta, e mi dice, io non avevo mai avuto rapporti con Nicoletta Ramorino, cioè è venuta, mi ha portato in un angolino, mi ha detto: senti, io votavo per te, ma qualcuno ha votato contro, dobbiamo prendere quell'altro, ma ti assicuro che se tu torni tra un anno ti faccio entrare. Cioè, io avevo litigato con tutti i miei, eccetera, per fare cosa. Ho detto: no, o mi prendete subito o io non torno più. Probabilmente ho fatto male, non lo so. Però io ho detto: no, ma io ho bisogno di entrare adesso, per molti motivi, ho bisogno di entrare adesso. E purtroppo, e non sono più tornato, cioè non ho rifatto il soletto. Cosa è successo? Mi sto annoiando, sto entrando in questi partiti. Cosa è successo? È successo che poi vengo a sapere che il mio socio, che mi aveva contrastato tutto il tempo, ma no, tu non devi fare l'esame, in realtà era andato a contattare la Nicoletta Ramorino, aveva preso delle lezioni private da lei, perché voleva fare, visto che lo facevo anch'io l'esame, voleva farlo anche lui, e io non lo sapevo. Quindi già il fatto che lui avesse fatto questa, la Nicoletta Ramorino gli ha consigliato di non farlo proprio l'esame. Tutta questa vicenda alle mie spalle, ancora di più, ma no, cioè, tu, cioè non esiste, esiste che fa una roba del genere, io non lo so, perfetto. Dopodiché cosa è successo? Sono andato a militare, il militare l'ho fatto tutto, c'è stata questa cosa che siccome appunto i miei si erano separati e mia mamma aspettava una bambina e aveva già un'altra sorella e io ho chiesto prima di partire l'avvicinamento a Milano. In realtà per 6 mesi questa cosa non c'è stata, nel senso che mi hanno mandato a Tricesimo di Udine, giusto appunto visto che la compagnia era di Udine, io ero comodissimo, cioè guarda caso, cioè il destino, no? infanteria, ok, però siccome ero caporale e poi caporal maggiore e comandante assaltatori, dopo 6 mesi mi hanno spostato a Milano in Viale Suzzani, mi hanno cambiato di corpo, la potenza di 1000 braccia, mi sono diventato bersagliere ed ero in una squadra d'alta rappresentanza, eravamo quelli fighi, nel senso che se arrivava il Presidente della Repubblica in centro andavamo noi, capito? Quindi cazzuti nerboruti. E devo dire che cioè, la cosa che sempre mi fa impazzire a ritroso è che ho fatto il CAR a Casale Monferrato, okay. A un certo punto mi vengono a dire: ma tu, io assolutamente contro le armi, contro queste cose all'inizio, adesso non è più così, ma tu con il titolo di studio che hai e con le esperienze che hai potresti fare il comandante istruttore qui, se accetti rimani qui a Casale Monferrato. No, io non voglio comandare nessuno, io non voglio dire a nessuno che cosa deve fare, poi tutto il resto della vita ho fatto questo per la regia, sempre, ok, però ho detto no, non lo voglio fare, e infatti mi hanno sbattuto a Tricesimo di Udine. Se l'avessi saputo prima, che tanto comunque avrei fatto il comandante istruttore lo stesso, il comandante assaltatore, per cui tutti, quando sono venuto qui a Milano, dicevo bene, vado come sempre la leggenda dice, magari a dormire spesso a casa, mai una volta, io da Viale Suzzani qui non ci sono mai venuto, io qua, mai, perché forse perché dentro c'era anche nonnismo eccetera, questo qui di Milano, facciamo morire. Io ero sempre di comando di qualche cazzo di cosa, cioè o le cucine, tutte le mattine assalti a Bresso, ho fatto un assalto con gli elicotteri, c'è presente? Nel senso che, esatto, cioè sugli elicotteri, no, io con la mia squadra sull'elicotterino. Tutte esercitazioni, sì, sì. Allora, questo, perché mi piace raccontarla? Perché da tutte queste cose, dalla parata, dal correre, dal stare, cioè io nei laboratori teatrali questa cosa mi è servita tantissimo, perché era una specie, cioè a parte la, come dire, la concentrazione, la visione degli altri, respirare nello stesso modo, tutte queste cose che poi ho imparato anche ad insegnare nei laboratori, dei balletti, no? Cioè arriva la mamma, un signore, la precisione delle coreografie, la concentrazione su dove gli appoggi, un casino di cose veramente ho imparato lì e poi le ho riportate, e poi il fatto dell'attitudine al comando che non pensavo di avere, gli altri lo vedevano in me ma io non pensavo di avere, e invece no, perché no, vabbè, fa niente, questa cosa sarà sbagliata ma io devo decidere, decido io, ok, perfetto, ok, per cui questa cosa poi per la regia, per tenere i laboratori, ci sono stati degli anni che ne avevo un centinaio di allievi. Io mi sono inventato questa storia del laboratorio un po' perché appunto volevo provarmi su certe cose, poi mi hanno spinto da dentro, cioè io ho fatto un laboratorio come allievo di un allievo di Grotowski, perché io ripeto non ho mai fatto una scuola, ho sempre fatto delle cose con Mamadou Dioum, eccetera. Mi buttavo e dicevo no, voglio specializzare, cioè voglio provare, esatto. E durante il militare mi è venuta questa cosa qui, sia un po' l'attitudine al comando, comunque a rischiare, perché gli altri dovevano fare quello che facevo io. Non so se sai come funziona. Tu hai la squadra, è divisa in squadrette, no? Io ne comandavo 4, 5. Ok, per cui gli altri dovevano fare quello che facevo io. Il primo che gli sbalzi a Bresso che facevamo, gli attacchi a Bresso, no? Non so, io c'è un obiettivo da raggiungere, dopo noi dovevamo sparare contro questo obiettivo qui con questo FAL che è praticamente una mitragliatrice. Quindi pesante, cioè la gestione anche degli oggetti, le scarpe, i calli dentro le scarpe, cioè tante cose da fare, ok? E io so dove devo arrivare e devo decidere momento per momento se girare da una parte, se girare dall'altra, quanti passi di corsa devo fare prima di buttarmi a terra. Quindi ti faccio un esempio. Io, pronti? Siamo tutti a terra? Sì, ok. Io vado avanti, faccio 10 passi e mi butto a terra, gli altri fanno 10 passi e si buttano a terra. Quindi seguono me, capisci? Per come lo faccio, per dove giro, eccetera, eccetera. Quindi la gestione, no? Come lo storno. Il primo che muore sei tu, il primo che muore sei tu, il primo che rischia sei tu. Quindi mettersi a disposizione anche di questo poi ti crea un senso, appunto, di, cioè, sei tu ma sei anche gli altri, no? Capito? Quindi è questa cosa nel teatro, cioè io riesco a fare teatro da regista e da autore perché mi sono creato dietro la squadra giusta, se no io cioè se non ho dietro gli attori che voglio io, che mi seguono e capiscono che cosa voglio ottenere, io non lo ottengo. Ecco. Per cui la mia il mio modo di operare con gli attori è entrare in simbiosi, in compassione, nel senso soffriamo insieme, no? Mentre ero a militare a Tricesimo e avevo già fatto praticamente un anno di filosofia qui, dove sono andato a militare apposta per prendere delle decisioni, adesso cosa succede quando torno, ho chiesto il trasferimento al DAMS, per esempio, per cui pensavo, tornando, di vado a Bologna, comunque vado a fare gli esami a Bologna. In realtà questa cosa poi non è stata possibile, l'ho fatto per poco, ma poi ho dovuto mollare perché, appunto, se mi venivano degli spettacoli qui dovevo essere, poi non riuscivo a studiare più di tanto, poi i miei che si sono separati, io ho dovuto prendere un appartamento fuori, io sono andato ad abitare fuori, quindi avevo a 18-19 anni, ero già fuori casa, capito? Quindi dovevo pagare l'affitto e tutte queste cose qua. E non riuscivo a tenere dietro tutta questa roba, per cui ho fatto benissimo i primi esami, perché qua ho fatto filosofia morale, filosofia teoretica, psicologia, tutti 30, ho fatto drammaturgia, storia dello spettacolo, dopodiché ho mollato l'osso, ho detto non posso fare tutto e ho cercato a quel punto, visto che non riuscivo a starci dietro e non guadagnavo abbastanza, di trovare anche un altro lavoro. E infatti ho risposto a un annuncio alla Ricordi, cercavo un commesso per un negozio, poi ho fatto 4 colloqui, la Ricordi, quando era la Ricordi, perché adesso vabbè, e quindi io ho lavorato sempre poi per la Ricordi, sono entrato come commesso, ho sempre continuato a fare teatro, quindi io 3 volte alla settimana facevo le prove, eccetera, quindi mi sono legato a delle compagnie, perché volevo, siccome volevo fare teatro serio, ok? Per cui abbandonando il cabaret, mollando il cabaret e anche la compagnia di Udine, perché facevano gli spettacoli per i bambini, ma poi erano Udine, era un casino, mi sono legato a delle compagnie qui di Milano, una compagnia in particolare che era qui vicino, dopo un'altra, che faceva spettacoli però di impegno. Quindi io ho fatto, cioè, per dire, no, nel senso che io ho fatto delle cose che non ha fatto nessuno, veramente. Cioè Lazzaro di Pirandello non lo conosce nessuno, è uno dei 3 miti di Pirandello, insieme ai giganti della montagna che conoscono tutti, ok, Lazzaro di Pirandello. Ma io l'ho fatto per 10 anni, ho fatto un sacco di repliche, una volta al mese, non lo so, è tutto, okay. Ho fatto Così a Se Vi Pare di Pirandello, ho fatto 80 di repliche. Quindi ho fatto molto Pirandello, ho fatto Shakespeare, ho fatto Cyrano di Bergerac, facevo le Bree, tutte queste robe qua, Beckett. E quindi per la maggior parte degli anni io ho fatto l'attore, però siccome scrivevo, continuavo a scrivere, ho partecipato e ho vinto 2 premi nazionali come drammaturgo. Però a parte delle mise in spass, che sono state 4 volte mi hanno messo in spazio, diciamo, al filo drammatici. Spettacolo sempre su richiesta, su Oscar Wilde, che ho intitolato Ballata Lirica, sempre 2 attori, dalla ballata dal carcere di Reading. È stato quello, il primo che ho scritto, prima ancora dell'Alvise, che ha cementato un rapporto. Infatti adesso con questi attori sono socio, nel senso che abbiamo fatto compagnia insieme. Reading Hall si chiama, Reading Hall perché è il carcere di Reading, quindi la mia compagnia, la mia associazione culturale si chiama Reading Hall perché è il carcere di Reading, perché noi ci siamo conosciuti in carcere. Allora, il carcere di Reading è dove lui è stato imprigionato per omosessualità, benissimo. Era un carcere particolare perché lui è stato mandato lì, ha voluto andare lì e l'hanno spostato lì perché era anche una biblioteca. E gli facevano tenere la biblioteca per passare il tempo. Poi lui ha scritto questa lunga, non è una poesia, ma in prosa poetica, che si intitola Ballata dal carcere di Reading, dove racconta di aver visto e aver seguito questo giovane soldato che è stato arrestato perché ha ucciso la donna che lui amava, e lo segue finché viene ucciso, praticamente è stato condannato a morte e viene ucciso. Però la cosa forte di lì, che poi ha ripreso anche Almodovar, la frase clou di questa cosa è: ognuno uccide ciò che ama. Cioè Il lavoro filosofico che c'è sotto è: lui va bene, ok, ha ucciso la donna e quindi è giusto che venga condannato a morte, ma quanti di noi hanno, senza saperlo, ucciso un amore, un affetto, solo per aver usato le parole sbagliate, per non essere stato lì al momento giusto, no? Cioè, quindi forse tutti abbiamo le nostre colpe, che però nessuno ci fa. Lì sono i 2 personaggi. È tutto, sembra ambientato nel carcere, quello che viene condannato a morte e il suo compagno di cella. In realtà, mano a mano si capisce che è la stessa persona, quindi è tutto nel cervello di lui che, piuttosto che andare a morire, si ammazza lui, si impicca lui alla fine. Ho già svelato il finale, ma comunque non è quello, è tutto un discorso filosofico su questa cosa qui, sullo sdoppiamento, io e l'altro, eccetera. Eh, vengo a contatto con questo testo che avevano messo in scena già Haroldo Thieri e Lalo Iodice in Italia, con un titolo, l'originale è Park Your Car in Harvard Yard, fatto a Broadway da attoroni eccetera. In Italia loro l'avevano messo in scena come Rose Rosse per una signora in nero, una roba del genere, non c'entrava un cazzo. Conosco questa attrice eccetera che mi dice: mi piacerebbe fare questa parte qui di questo testo che non conosco, ci fai la regia? Vabbè, ok. Allora scopro che la versione italiana era molto ridotta. Allora mi faccio mandare il testo originale da Horowitz, a cui ho pagato un anticipo di 1000 euro sui diritti d'autore per avere il testo, tradurlo, cioè l'ho fatto ritradurre, l'ho aggiustato io dal punto di vista drammaturgico e l'ho messo in scena. Anche lì ho fatto diverse repliche. E su cosa mi sono scontrato? Su un testo che durava almeno 2 ore, quasi 2 ore e un quarto, senza intervallo, ok, solo 2 attori, io li ho riprese da lì, poi queste cose, sempre in scena, o uno o l'altro, erano sempre in scena, a volte tutte e due, a volte uno e l'altro, uno tra l'altro usciva. Lì la cosa contro cui mi sono scontrato come difficoltà era ovviamente tenere in scena 2 attori senza intervallo. Poi mi sono scontrato anche con i teatri che dicevano: no, dobbiamo fare intervallo perché dobbiamo vendere le pizzette eccetera. No, io lo faccio. Ma no, non è possibile, la gente si rompe. Non si è mai rotta perché era talmente emotivo la cosa che montava, che la bravura del testo è oltre che un pochino mia. Lì la cosa tecnica, nel senso che ambientato, c'è un vecchio insegnante di Harvard e è rimasto solo, non è più capace di stare in casa da solo eccetera, chiede una badante, si presenta questa quarantenne che lui non riconosce, in realtà lei è lì per vendicarsi, perché lei è un'ex allieva, il suo ragazzo è stato un'ex allieva, lui era un professore stronzo che ha bocciato un sacco di persone e ha rovinato la vita a un sacco di persone. Quindi c'è questa cosa noir che viene fuori, cioè è lì per ucciderlo, è lì per fare che cosa, non lo so. E quindi c'è questa attesa per come si comporta lei. Cioè, in realtà poi alla fine lei un po' si innamora di sto vecchietto poveretto, per cui fino alla fine lo accudisce comunque, cioè cambia durante l'ora. La cosa tecnica, cioè ambientata su un fiordo, cioè su mare, e cioè, è divisa per stagioni, per cui in una stagione il mare era un certo tipo, i rumori che venivano fuori erano di un certo tipo, gli uccelli erano di un certo tipo. No, ti dico così perché io sono stato molto alle indicazioni del regista e volevo metterlo esattamente in scena come diceva il regista. Ok? Il terzo personaggio era la radio. Ok? La radio che lui segue, cioè questa trasmissione che lui segue di questo, che poi lo facevo io poi in scena. Registrato, ma una trasmissione che trasmetteva musica classica. I pezzi che il presentatore trasmetteva di musica classica erano precisi. Trevor Penn, che dirige l'orchestra filarmonica di questo Vivaldi, ok, io sono andato a riprendere esattamente quelle musiche lì. Non è stato facilissimo. Il mio tecnico, genio, aveva tre piste, perché in una c'era i suoni fuori, ok, che cambiavano volta per volta, anche gli uccellini, in inverno lì non ci sono gli uccellini, quindi siamo fatti queste ricerche qui, ci sono quegli altri, o c'è il mare in tempesta o non c'è il tempesta. La mia voce registrata nella radio e... che altro, erano tre bande. Lui interveniva come se fosse presente quello della radio, per cui lo contraddiceva e quello rispondeva in un certo modo, per cui doveva stare attento a rallentare. Beh, è stato anche questo, è stato fondamentale per poi le cose che ho fatto. La musica è sempre stata molto importante nei miei lavori, e il clima e il desiderio di cambiare, come se fosse una sinfonia. O conosco la musica, quindi se la prima scena è un rallentando, la seconda deve essere quasi brillante, la terza scena deve essere un adagio, non so se mi spiego. E gli attori sono tenuti a tenere questa cosa, e quindi dà questo andamento vario, non è tutto uguale.